Dopo che il re Astiage si fu riunito ai suoi avi, Ciro il Persiano gli successe nel regno. Daniele era un confidente del re, stimato al di sopra di tutti i suoi amici. Or i babilonesi avevano un idolo, di nome Bel, per cui consumavano ogni giorno 12 sacchi di fior di farina, 40 pecore e 6 anfore di vino. Il re lo venerava e andava ogni giorno a prostrarsi davanti a lui. Daniele, invece, si prostrava davanti al suo Dio. Il re gli domandò: «Perché non ti prostri davanti a Bel?» Gli rispose: «Perché non adoro gli idoli fatti da mano d'uomo, ma il Dio vivente che ha creato il cielo e la terra e che ha potere sopra ogni carne». Il re gli domandò: «Tu pensi che Bel non sia un Dio vivente? Non vedi quanto mangia e beve ogni giorno?» Daniele, ridendo, rispose: «Non ti ingannare, o re. Costui, infatti, al di dentro è creta, benché di fuori sia bronzo, e non ha mai mangiato né bevuto». Allora il re, infuriato, chiamò i suoi sacerdoti e disse loro: «Se voi non mi dite chi è che mangia quanto viene fornito, sarete messi a morte. Se invece dimostrerete che Bel mangia tutto, allora sarà messo a morte Daniele, perché ha bestemmiato contro Bel». Daniele disse al re: «Sia come tu hai detto». I sacerdoti di Bel erano 70, oltre le donne e i bambini. Il re andò dunque con Daniele al santuario di Bel. I sacerdoti di Bel dissero: «Ecco, quando noi saremo usciti fuori, tu, o re, imbandisci le vivande e, attinto il vino, deponilo. Poi chiudi la porta e sigillala con il tuo anello. La mattina, poi, venuto di buon'ora, se non troverai tutto consumato da Bel, saremo fatti morire. Altrimenti lo sarà il nostro calunniatore, Daniele». Costoro ragionavano con astuzia, perché avevano praticato sotto la mensa un accesso segreto attraverso il quale entravano ogni giorno e portavano via ogni cosa. Così, quando quelli furono usciti, il re mise davanti a Bel le vivande. Daniele ordinò ai suoi servi di portare della cenere e di seminarla per l'intero santuario, alla presenza del re soltanto. Poi, dopo essere usciti, chiusero la porta e la sigillarono con l'anello del re e se ne andarono. I sacerdoti entrarono di notte, secondo il solito, con le loro mogli e i loro bambini, e mangiarono e bevvero ogni cosa. Al mattino il re di buon'ora si alzò insieme a Daniele. Il re domandò: «Sono intatti i sigilli, Daniele?» Rispose: «Sono intatti, o re». Allora, appena il re ebbe aperti i battenti, avendo guardato sulla mensa, gridò a gran voce: «Sei grande, o Bel, e non c'è nessun inganno in te». Ma Daniele, messosi a ridere, trattenne il re perché non entrasse e disse: «Guarda il pavimento e osserva di chi sono queste orme». Il re rispose: «Vedo impronte di uomini, di donne e di bambini». Pieno d'ira, il re fece prendere i sacerdoti, le mogli e i loro figli. Essi allora gli mostrarono le porte segrete attraverso le quali entravano per consumare quello che era sopra la mensa. Il re quindi li fece uccidere e consegnò Bel in potere di Daniele, che lo distrusse insieme al suo santuario. C'era un grosso drago e i babilonesi lo veneravano. Il re disse a Daniele: «Tu non puoi dire che questo non è un Dio vivente, adoralo dunque». Ma Daniele rispose: «Io adoro il mio Signore Dio, perché Egli è un Dio vivente. Tu dunque, o re, dammene il permesso, ed io ucciderò il drago senza spada e senza bastone». Il re disse: «Te lo concedo». Allora Daniele prese pece, sego e peli e li fece cuocere insieme. Poi ne preparò focacce e le gettò nella bocca del drago. Il drago, dopo averle mangiate, scoppiò. Allora disse: «Ecco ciò che voi adorate». Quando i babilonesi appresero la notizia, ne furono molto indignati e insorsero contro il re, protestando: «Il re si è fatto giudeo, ha distrutto Bel, ha ucciso il drago e ha massacrato i sacerdoti». Venuti poi dal re, dissero: «Consegnaci questo Daniele, altrimenti uccideremo te e la tua famiglia». Il re, visto che lo molestavano tanto, fu costretto a consegnare loro Daniele. Essi lo gettarono nella fossa dei leoni, dove rimase per 6 giorni. Nella fossa c'erano 7 leoni, ai quali ogni giorno si solevano dare 2 cadaveri e 2 pecore, ma allora non si dettero, perché mangiassero Daniele. C'era in Giudea il profeta Abacuc. Costui aveva fatto cuocere una minestra, spezzettato il pane in un piatto e si avviava verso il potere per portarlo ai mietitori. L'angelo del Signore disse ad Abacuc: «Porta questo desinare in Babilonia a Daniele, nella fossa dei leoni». Abacuc osservò: «Signore, io non ho mai visto Babilonia e non conosco la fossa». Allora l'angelo del Signore, afferratolo per la testa e sollevandolo per i capelli del capo, lo portò a Babilonia sopra la fossa con il soffio del suo spirito. Abacuc gridò forte: «Daniele, Daniele, prendi il pranzo che Dio ti ha inviato». Daniele esclamò: «Veramente ti sei ricordato di me, o Dio, e non hai abbandonato coloro che ti amano». Alzatosi, Daniele si mise a mangiare, mentre l'angelo di Dio riconduceva Abacuc al posto di prima. Il 7° giorno il re andò per piangere Daniele. Arrivato alla fossa, guardò e vide Daniele seduto. Allora, gridando a gran voce, esclamò: «Sei grande, Signore Dio di Daniele, e fuori di te non c'è un altro». Quindi lo fece tirar fuori, mentre fece gettare i colpevoli della sua rovina nella fossa, dove furono subito sbranati davanti a lui.